Quello che Dio non permette. Ho letto un opuscolo molto interessante dal titolo Sono io che lo permetto. L'autrice mette in evidenza la sovranità di Dio in ogni situazione della nostra vita. Se siamo tentati, se ci troviamo in circostanze difficili, in difficoltà finanziarie, se attraversiamo periodi tristi, se un amico ci delude, se i nostri progetti sono sconvolti, se si sono volute fare grandi cose per Dio ed eccoci invece ammalati, se siamo chiamati a portare delle responsabilità ad alto livello, consideriamo ogni avvenimento non come un caso, ma permesso da Dio allo scopo di benedire la nostra vita. Riflessioni più che giuste. Una delle ragioni per le quali molti cristiani perdono la fede o abbandonano la vita cristiana è che rimangono delusi dalle vie di Dio. Come i credenti che ci hanno preceduti, come Giobbe, possiamo stimare Dio non un Dio d'amore e neppure giusto. Concludiamo affermando come certi ebrei, la via del Signore non è giusta, Ezechiele 18 e 25. Le vie di Dio turbano soprattutto quando siamo toccati nel vivo, quando nostra figlia è violentata, quando nostro figlio diventa tossicomane, o scopriamo la sua omosessualità, quando muore una cara sorella, giovane madre di 4 figli. Sì, Dio permette tutto ciò. Altri credenti sono frenati nella corsa verso il premio, perché mentre alcuni hanno una vita tranquilla, piena di onori, di benessere, di riconoscenza, per loro Dio permette un'esistenza di crocifissione ed umiltà. Sì, Dio permette situazioni e avvenimenti che mettono a dura prova la nostra fede. E questo Dio lo fa con tutti i suoi figli, anche con i grandi uomini di fede. Dio non ha permesso ad Abramo di vedere la numerosa progenie che gli aveva promessa. Non ha permesso a Giacobbe e Giuseppe di vedere il popolo di Israele tornare nella terra promessa. Non ha permesso a Mosè di entrare nella terra promessa, nonostante che questi l'avesse condotto nel deserto per 40 anni. Non ha permesso a Samuele che unse Davide come re di vederlo sul trono. Non ha permesso a Davide ricostruire il tempio, benché egli avesse avuto un lecito e giusto desiderio. Non ha permesso a Geremia, che profetizzò i 70 anni della deportazione di Israele, di vedere il ritorno del popolo. Non ha tolto a Paolo, fedele servitore, la spina nella carne. Sì, Dio ha permesso tutto questo ed altre situazioni che ci toccano, lo sterminio di 6 milioni di ebrei, violenze, guerre, ingiustizie, soprusi. Però, devo confessare, la lettura dell'opuscolo mi ha lasciato un vuoto nell'anima. Mi sentivo disorientato, confuso, come se da un momento all'altro mi poteva capitare qualsiasi cosa. Dentro di me pensavo, è vero che Dio è sovrano, è certo che ogni cosa è Lui che la permette, ma è proprio vero che Egli possa permettere ogni cosa. Così, con questo interrogativo, ho letto la parola di Dio per scoprire se vi erano situazioni che il nostro Signore non permetteva. Con gioia ho trovato 3 promesse che Dio ha fatto al riguardo. 1. Non permette che il giusto soffra la fame. 2. Non permette che i cristiani siano tentati al di là delle loro forze. 3. Non permette che il giusto vacilli. Esaminiamo ora queste 3 meravigliose promesse. Dio non permette che il giusto soffra la fame. Proverbi 10, 3. La fame è una delle piaghe più grandi del nostro secolo. La povertà, e quindi la fame, è una delle realtà che il mondo ha sempre conosciuto. E questo è in armonia con quello che Gesù disse. I poveri li avrete sempre con voi, Matteo 26, 11 e Deuteronomio 15 e 11. Quindi la promessa contenuta in Proverbi è veramente straordinaria. Il Signore non permette che il giusto soffra la fame. Promettendo questo, Dio non ha garantito una vita agiata a tutti, nemmeno ai suoi figli. Perché è Lui che fa il povero, Proverbi 22, 2. La sua promessa, relativa all'intera vita del credente, è rivolta a certe circostanze che non porteranno il giusto a soffrire la fame. Ha testimoniato il salmista. Io sono stato giovane e sono anche diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza a mendicare il pane. Salmo 37,25. Ma come conciliare tutto questo quando in realtà tanti credenti soffrono la fame? Ma non l'ha forse sofferta anche l'Apostolo Paolo? 1 Corinzi 4,11. Se Dio è venuto meno alle sue promesse, come possiamo predicare la sua fedeltà? Come possiamo allora vivere serenamente? Ogni promessa di Dio deve collocarsi nel suo contesto. Dio non permetterà che il giusto soffra la fame in un contesto di vita ordinaria. Ma in caso di persecuzione a motivo del regno di Dio, come era nel caso dell'Apostolo Paolo, allora il giusto può anche soffrire la fame, come lo stesso Paolo disse, perché vi è stata concessa la grazia e non disgrazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, Filippesi 1:29. E in questo soffrire vi è anche la fame. Proprio per questo motivo dobbiamo ritenere che se il giusto soffre la fame in un contesto di vita normale, ci è qualcosa che non va. O i giusti non sono giusti, cioè non sono dei cristiani, oppure questi giusti non osservano le cautele più elementari della vita, accortezza, buon senso, prudenza. Non è sufficiente essere cristiani per evitare certe sofferenze. I cristiani, prima d'essere tali, sono uomini e come esseri umani sono soggetti alle leggi della vita. Ecco alcune affermazioni della parola di Dio. A. Il campo lavorato dal povero dà cibo in abbondanza, ma C. è chi perisce per mancanza di equità. Proverbi 13:23. La pigrizia fa cadere nel torpore e la persona indolente patirà la fame. Proverbi 19:15. Per Dio il lavoro è sacrosanto. Il lavoro fa parte del carattere di Dio perché Egli è il creatore e il sostenitore d'ogni cosa fin dalla prima pagina della Bibbia. Con il lavoro l'uomo si procura del cibo. E anche il povero, benché non abbia molto, può vivere dignitosamente. E, per questo motivo che vi sono persone che soffrono la fame, perché sono pigre, indolenti, la stessa sorte può toccare anche a chi manca d'equità. Egli può trovarsi in necessità oltre il lecito. In certi momenti della vita si possono anche contrarre dei debiti, ma quando la loro entità non rientra nelle nostre possibilità, ciò determinerà a un fallimento economico. B. L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Proverbi 14:15. A volte ci si trova nella necessità perché si è ingenui, perché si crede a qualcuno senza prima essersi informati. Si può affittare un appartamento a persone senza scrupoli per poi trovarsi davanti a un tribunale. Mossi da compassione si presta del denaro a persone che hanno l'abitudine di non restituirlo. Nel campo della fede si può seguire un movimento religioso per ritrovarsi tra degli estremisti. L'ingenuità riposa spesso nei cristiani desiderosi solo di compiere il bene. C. L'uomo che smarrisce la via del buonsenso riposerà nell'assemblea dei defunti, Proverbi 21:16. Nella vita occorre avere buonsenso, cioè quella logica che non crede agli asini che volano. Chi non usa il discernimento, prima o poi si troverà in brutte situazioni. A questo errore si espongono principalmente coloro che desiderano vivere una vita piena di Spirito Santo senza avvalersi dell'elemento del buon senso. Una vera spiritualità non esclude la nostra razionalità. Di l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22:3. Quando manca l'accortezza, la parola di Dio afferma che l'uomo ne porta le conseguenze. La scrittura non sostiene che ai cristiani andrà tutto bene, perché un figlio di Dio malaccorto subirà le conseguenze di questo suo difetto come qualsiasi altro uomo. Prima di dare la tua fiducia a qualcuno, informati. Prima di garantire per qualcuno, devi conoscerlo molto bene perché le sorprese non mancano mai. Certi matrimoni sono crollati perché un coniuge non ha saputo fermarsi ai primi sintomi di insofferenza. Un uomo accorto vale di più di uno istruito. E ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C è un tale giusto che perisce per la sua giustizia, e C è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Ecclesiaste 7:15. Nella vita bisogna essere giusti, ma una giustizia esasperata può portare a conseguenze negative. A volte i cristiani cadono proprio in uno zelo eccessivo. Un giorno un credente fu salutato da un non credente. «Buongiorno, signor X». Il credente, nel volere dimostrare la sua serietà spirituale, rispose con una punta di fanatismo: «Lei non mi deve chiamare signor, perché il signore è in cielo». Inutile dire che questa persona non volle più sentire parlare del Vangelo. Ho conosciuto una credente che ha rifiutato la pensione di suo marito perché le sembrava ingiusto percepirla e che in seguito si è trovata in ristrettezze economiche. F. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo, e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. 1 Timoteo 6:6-10. È Dio che decide il nostro tenore di vita. C. È chi ha molto e chi poco. L'importante in questa vita non è essere ricchi o poveri, ma avere un animo contento del proprio stato sociale, perché chi ama godere sarà bisognoso. Chi ama il vino e l'olio non arricchirà. Proverbi 21 e 17. Chi ha voluto di più di quello che Dio aveva stabilito si è procurato molti dolori. Spesso è l'invidia che porta le persone a desiderare oltre il lecito, ma come sta scritto, l'uomo invidioso ha fretta di arricchire e non sa che gli piomberà addosso la miseria. Conviene tenere presente l'invito di Dio. Non ti affannare per diventare ricco. Smetti dall'applicarvi la tua intelligenza. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare, poiché la ricchezza si fa delle ali come l'aquila che vola verso il cielo. Proverbi 23, 4 a 5. Di fronte a queste riflessioni, le conclusioni sono scontate. Dio ci chiama ad aiutare il povero, colui che è bisognoso, chi soffre la fame, e ci incoraggia a farlo facendo tante promesse. Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso lo onora. Proverbi 14 e 31. Chi ha pietà del povero presta al Signore, che gli contraccambierà l'opera buona. Proverbi 19 e 17. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. Proverbi 22 e 9. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. Proverbi 28-27. Vedo tre tipi di persone bisognose. La prima è quella che non ha un cammino corretto, quella che sperpera il denaro e conseguentemente si trova nell'indigenza, nella povertà, nel bisogno. Non credo che i credenti o una chiesa debbano caricarsi di un simile peso, a meno che il Signore non lo indichi espressamente. Poi vi è quella persona che per mancanza di discernimento fa un passo più lungo della gamba e si trova in difficoltà economiche. In tali casi la prima cosa da compiere è quello di istruirla. Se un cristiano per mancanza di accortezza, di equità o di giustizia si trova a soffrire la fame, prima di tutto confessi il suo peccato davanti a Dio, in seguito non deve pretendere che la Chiesa o i credenti singoli lo aiutino. Infine, deve accettare di portare le conseguenze dei suoi errori tenendo presente che se anche ha sbagliato Dio provvederà perché non soffra la fame, perché Lui non lo permetterà. Poi vi è quella persona che può trovarsi nel bisogno per circostanze eccezionali come nel caso di un terremoto o di una disgrazia. Se non è un cristiano, l'aiuto è considerato come opera umanitaria. Se si tratta di un cristiano, la Chiesa è chiamata a intervenire. Ogni Chiesa deve aiutare ogni suo membro che è veramente povero, prima di tutto per dovere, e questo è amor fraterno. In secondo luogo, la Chiesa diventa uno strumento di Dio per realizzare la promessa che il giusto non soffrirà la fame. A noi cristiani non resta che ringraziare Dio perché in qualsiasi situazione della nostra vita rimane ferma la promessa che troviamo in 1 Pietro 5, 6 a 7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Se Dio cura di me, allora lo scopo della mia vita sarà quello di cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Il cristiano si distingue da chi non lo è innanzitutto dall'atteggiamento che ha verso i beni di questa vita. Purtroppo vi sono cristiani che vivono da pagani. Se la parola di Dio ci ammonisce, non ti affannare per diventar ricco, smetti dall'applicarvi la tua intelligenza. E perché ognuno di noi è inclinato a dare troppa importanza ai beni terreni. Non a caso, Gesù, nella parabola del seminatore, ricorda tristemente che il seme caduto nelle spine rappresenta tutti coloro che odono la parola di Dio come ora avviene, e poi se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dagli impegni della vita, dalle ricchezze e piaceri della vita, l'avidità delle altre cose. Questo quadro non rappresenta degli individui morbosamente attaccati al denaro, ma semplicemente persone normali che danno precedenza alle cose terrene. Anzi, sono quelle persone che forse noi riteniamo degli esempi. A volte capita di leggere sulle lapidi dei cimiteri in necrologi, che riassumono la vita del defunto, un esempio d'abnegazione alla famiglia e al lavoro. Non vi è nulla da recriminare su chi lavora sodo perché compie la volontà di Dio e così occupato, non ha tempo di compiere il male. Ma quando è l'esistenza del cristiano a essere dedita al lavoro, a discapito del regno di Dio, la situazione diventa seria. Questi cristiani Gesù li chiama pagani, cioè coloro che cercano nella loro vita prima ciò che è terreno anziché il regno di Dio. E, bene ricordare, che per Gesù i pagani sono coloro che amano chi li ama, sono cordiali con chi è cordiale, pregano per i loro amici, benedicono chi li benedice, pregano con grande verbosità, cercano prima le cose terrene e poi quelle spirituali. Noi dimostriamo di credere veramente in Dio quando diamo precedenza al regno di Dio con la fede che quel che fa ricchi è la benedizione del Signore e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Proverbi di dove si trova questa benedizione dell'Eterno? Ecco quant è buono e quant è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba da Aaron, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Salmo 133. La Chiesa è luogo di benedizione, di protezione. Dio non permette che il giusto soffra la fame non solo nel senso materiale, ma anche spirituale. Se come cristiani non siamo sufficientemente nutriti spiritualmente, dobbiamo rivedere non solo il nostro rapporto con Dio, ma anche quello con i fratelli. Troppi cristiani hanno dimenticato le promesse di Dio, e chi offre liberalmente e diventa più ricco, e ci è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Proverbi 11, 24-25. Il principio di Dio è che chi fa del bene, chi serve il prossimo, chi usa i propri beni per il regno di Dio, non sia mai povero, non soffre penuria. Facciamo nostra l'ingiunzione, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Visitiamo gli altri come vorremmo essere visitati. Comprendiamo gli altri come desideriamo essere compresi. Offriamo agli altri la nostra comunione come noi desideriamo quella degli altri. Edifichiamo gli altri come vorremmo essere edificati noi. Perdoniamo gli altri come vorremmo essere perdonati. Onoriamo gli altri come vorremmo essere onorati. Sopportiamo gli altri come vorremmo essere sopportati. Doniamo agli altri come vorremmo che gli altri donassero a noi. Difendiamo gli altri come vorremmo essere difesi noi. Ci rallegriamo con gli altri come vorremmo che gli altri si rallegrassero con noi. Cerchiamo gli altri come vorremmo essere cercati noi. In definitiva, amiamo gli altri come noi vorremmo essere amati. L'Apostolo Paolo, benché non avesse beni terreni, poteva affermare di vivere come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. 2 Corinzi 6 e 10. Così vivono i giusti nel cospetto di Dio. Facciamo nostre le promesse di Dio. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane triborato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Salmo 127, 1 a 2. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Salmo 33, 18-19. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Salmo 37, 18-19. Dio non permette la tentazione oltre le nostre forze. Se è vero che ogni situazione della nostra vita è permessa da Dio, non è vero che Egli permetta ogni cosa. Delle tre promesse che Dio ha fatto, quella che consideriamo dovrebbe rendere il cristiano gioioso nel difficile cammino cristiano. Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10 e 13. Anche questa promessa di Dio è meravigliosa. Il credente è soggetto a ogni tentazione più di ogni altra creatura. Infatti, egli è il solo che possiede due nature, quella umana e quella divina. Come è scritto, perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Galati 5:17. Queste due nature opposte combattono tra di loro e non lasciano in pace il cristiano. Quindi, non è vero, come alcuni affermano, che diventando cristiani i nostri problemi sono risolti. Anzi, essi aumentano perché il credente è tentato su tre fronti. 1. Dal diavolo. Se ha tentato Gesù, quanto più tenterà i figli di Dio. 2. Dal mondo. Come ha tentato Eva, così tenta con la sua concupiscenza tutta la razza umana. 3. Dall'interiore. Gesù ha detto che è dal cuore dell'uomo che vengono pensieri malvagi. Con un quadro del genere ci sarebbe poco da essere sereni se non avessimo la promessa di Dio che non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Perché allora si cade nelle tentazioni? Perché sono poche le vittorie sul peccato che certi credenti sperimentano? E forse Dio è venuto meno alle sue promesse? Sono forse le tentazioni più forti dell'uomo? Possiamo dire con certezza no. Consideriamo tre ragioni per le quali i credenti cedono alla tentazione. 1. Per un atteggiamento sbagliato verso la tentazione. Vi sono credenti che cedono alla tentazione perché pensano che essere tentati sia già un peccato. Vari credenti mi hanno confessato di considerare peccato alcuni pensieri che involontariamente passavano per la loro mente. Il dottor Paul Tournier raccontava il tormento di una donna che a volte desiderava uccidere suo figlio. Si sentiva in colpa e non si dava pace. Ma avere impulsi sbagliati non è peccato. Essi non fanno altro che mettere in evidenza la nostra natura umana corrotta. Noi non possiamo impedire agli uccelli del cielo di volare sulla nostra testa, ma possiamo impedire loro di fare il nido sul nostro capo. Dobbiamo convincerci che i nostri sentimenti sono involontari e non hanno alcun carattere morale. Il peccato è assecondare gli impulsi, compiere il fatto. Un omosessuale avrà sempre impulsi sbagliati, perciò dovrà imparare a convivere con essi. Finché un credente pensa ai suoi impulsi come a una colpa, egli è praticamente disarmato, è già sconfitto di fronte alla tentazione. Il peccato consiste nel concretizzare l'impulso. Qualcuno mi farà notare che per Gesù è peccato solo guardare una donna per desiderarla, ma la sua affermazione va intesa. Il peccato non consisteva nel guardare una donna, ma soffermare il pensiero su di essa per desiderarla. In definitiva, il primo sguardo non è peccato, ma il secondo sì. Così come Gesù è stato tentato e questa esperienza non l'ha reso un peccatore, noi dobbiamo convincerci che la tentazione non è peccato per poterla vincere. 2. Perché il peccato molto spesso è piacevole. L'autore della lettera agli Ebrei commentò riguardo alla vita di Mosè: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Ebrei 11:24. Nel libro dei Proverbi leggiamo: le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Proverbi 18:8. Spesso il peccato è piacevole. Pensiamo al peccato della golosità, dell'ubriachezza, dell'adulterio e a quelli meno evidenti di carattere spirituale, quali l'orgoglio, la vanità, la maldicenza. Nessuno può affermare che bere, mangiare, la vanità e la maldicenza non procurino piacere. Se così non fosse, il peccato avrebbe meno schiavi o vittime. E, fuorviante rappresentare il tentatore brutto e cattivo, con le corna e la coda. Se egli si presentasse sempre in veste negativa, molti fuggirebbero dal peccato. Perciò il diavolo lo presenta anche sotto un aspetto piacevole e attraente. E, per questo che a volte, Satana si traveste da angelo di luce. 2 Corinzi 11:14. Se il peccato non avesse la sua forma piacevole, gli uomini sarebbero più santi. Ma il diavolo è astuto anche con il peccato. Lo spiega bene la seguente barzelletta. Un uomo muore e va in cielo. Gli viene chiesto di scegliere fra il paradiso e l'inferno. Posso vedere prima come si vive in quei luoghi? Chiede. Ha avuto il consenso e gli va prima all'inferno e vede delle persone che si divertono, che ballano, giocano, mangiano, bevono, allegria senza fine. Va in cielo e vede delle persone in ginocchio che pregano tutto il giorno e cantano inni. Torna in cielo e gli viene chiesto: hai scelto dove andare? Sì, risponde senza esitazione. Nella mia vita terrena ne ho avuto abbastanza di preghiere e di canti religiosi, perciò ho deciso di andare all'inferno. Detto questo, va all'inferno. Trova il diavolo che gli apre la porta e la chiude subito. Come entra, vede una marea di persone che stanno urlando dal dolore in mezzo a un fuoco che li tormenta. Si rivolge al diavolo tutto stupito ed esclama: ma io avevo visto prima delle persone che erano tutte contente, che ridevano, che si divertivano, ma questo non è il posto che mi è stato mostrato. Non è vero, risponde il diavolo con un sogghigno, perché quello che hai visto prima era solo pubblicità. Il piacere del peccato è solo illusione. Alla fine, dopo una bugia, un tradimento, un atto di ribellione, di invidia, di cattiveria, d'odio, d'amarezza, rimane sempre l'amaro. Nessuno di noi può ingannare Dio, come non è possibile infrangere la legge senza subirne le conseguenze. Si raccoglie sempre ciò che si semina. Ecco perché Paolo scrive dei credenti forse demoralizzati: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Galati 6:9. 3. Non si seguono i consigli di Dio. La terza ragione per la quale tanti credenti cedono alla tentazione è dovuta al fatto che non osservano alcune regole. Io ne cito 3. Vegliare in preghiera, non amare il denaro, essere temperati. A. Vegliare e pregare. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Matteo 26:41. L'invito di Gesù è straordinario. I discepoli erano stanchi e cadevano dal sonno. Gesù li invita a stare vigili e a pregare per non cadere in tentazione. Questo significa che a volte vi sono delle tentazioni che ci assalgono perché non vigiliamo e non abbiamo uno spirito di preghiera. Quando le tentazioni ci colgono impreparati, è facile prevedere che alla fine ci sarà una sconfitta. Come disse Gesù, a volte sì, è la buona volontà, Lo spirito è pronto, ma la nostra natura è debole. Mediante la preghiera, rendiamo vincenti le nostre buone intenzioni. B. Non amare il denaro. Quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. 1 Timoteo 6, 9. Noi siamo già abbastanza tentati, perché cerchiamo altre tentazioni? Eppure chi non s'accontenta del suo stato sociale e vuole arricchire diventa vittima di tentazioni che difficilmente riuscirà a controllare. Noi non possiamo metterci in condizioni di essere tentati e poi pregare Dio che ci liberi. Colui che imbocca la strada dell'insoddisfazione sfocerà in inutili e dannose tentazioni. Facciamo nostra la preghiera del salmista: io ti ho chiesto due cose. Non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Proverbi 37 a 9. L'animo contento del proprio stato è veramente un gran guadagno. C. Temperato nel sesso. Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccar donna, ma, per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito, e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. 1 Corinzi 7, 1 a 5. Il sesso è sempre stato uno strumento nelle mani di Satana, per tentare uomo e donna. Paolo invita, per evitare disordini sessuali, a sposarsi. Una volta sposati, contrariamente a quanto pensano molte persone, i problemi sessuali non spariscono tutti, ma ne insorgono altri. Paolo invita gli sposi a essere disponibili nel campo del sesso col proprio coniuge, ma li invita pure ad astenersi dai rapporti sessuali per pregare assieme. Infine li invita a non esagerare nell'astinenza per non essere tentati. Vi è quindi una tentazione sessuale dovuta a una mancanza di temperanza. Perché allora si cade nelle tentazioni nonostante la promessa di Dio che non saremo tentati oltre le nostre forze? 1. Perché si pensa che la tentazione sia un peccato. 2. Perché il peccato spesso è piacevole. 3. Perché non si seguono i consigli di Dio, non si prega, si ama il denaro e non si è temperati. Ancora una volta notiamo che Dio fa delle meravigliose promesse, ma esse sono condizionate dal nostro cammino. Come Israele, anche noi dobbiamo fare la nostra parte per ottenere la realizzazione delle promesse di Dio. Dio disse a Israele, dopo avergli promesso una terra meravigliosa: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. Deuteronomio 6 e 24. Come Israele dobbiamo calcare la terra promessa, dobbiamo lottare e ubbidire a certe regole, e solo allora realizziamo che le tentazioni non sono oltre le nostre forze. A certi credenti occorrono molti anni, altri arrivano alla morte senza capirlo, prima di comprendere che, se da parte nostra non possiamo fare quello che spetta a Dio, da parte sua Dio non farà quello che dobbiamo fare noi. Non ci resta quindi, ogni volta che cadiamo in tentazione, che confessare a Dio la nostra colpa e pregare. Non ci esporre alla tentazione, ma è l'unica via per riuscire a vincere le tentazioni future. Dio non permette che il giusto vacilli. La vita cristiana non è facile. Lo dimostrano tutti quei credenti che iniziano bene ma poi terminano male. Vi sono cristiani che, come Saul, sono scelti da Dio per certi compiti, ma in seguito, benché dotati come il primo re di Israele, cadono in vari errori e alla fine abbandonano Dio e la sua opera. In questo quadro poco confortante, sono più che mai preziose le promesse di Dio. Avviciniamoci quindi con gratitudine alla terza delle promesse di Dio. Crediamoci per realizzare la vita abbondante che Dio ha dato a tutti i suoi figli. Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Salmo 55, 22. La vita cristiana non è statica, ma è un cammino. Atti 9 e 31. Una corsa. 2 Timoteo 4, 7. Una lotta. 2 Timoteo 2, 5. Una gara. Ebrei 12, 5. È ovvio quindi che essa sia accompagnata dagli affanni. È altresì ovvio che chi getta sul Signore i propri pesi non vacillerà. Una persona sana, normale, adulta, ha generalmente un passo sicuro e fermo. Chi vacilla nel camminare ha qualcosa di anomalo. Secondo la Scrittura, il passo del giusto è fermo, sicuro. Non solo. Dio ha promesso che non permetterà mai che il giusto vacilli. Perché allora vi sono dei giusti che vacillano? Perché tutti, prima o poi, vacilliamo nella fede. Troviamo una risposta leggendo il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Questo salmo era nel loro cammino. Esprimevano la loro fiducia in Dio, guardavano del continuo alla santa città, levano gli occhi fissi ai monti che la circondavano. In questo canto confessavano che il loro aiuto veniva da Dio, il quale non avrebbe permesso che il loro piede vacillasse. In questo atteggiamento di fede è nascosta la verità più banale che esiste nella vita cristiana. Dobbiamo guardare a Dio. Questo è stato l'atteggiamento dei grandi uomini di Dio. Sta scritto che Mosè, per fede, abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11, 27. Tenere gli occhi fissi su Dio è dunque l'atteggiamento primario e vittorioso del cristiano. Purtroppo, è altresì vero che se vi è un errore comune per i cristiani, è proprio quello di distogliere gli occhi dal loro Signore. Spostare la nostra attenzione e fiducia da Dio sugli uomini è l'errore più frequente dei cristiani. Per questo la Scrittura invita del continuo il credente a guardare a Dio. Tutte le religioni hanno un punto in comune: seguono un uomo. I buddhisti seguono Buddha, i maomettani Maometto, i cattolici seguono il Papa. Il cristianesimo invita gli uomini a seguire Dio nella persona di Gesù. Spesso, anche senza rendersene conto, i cristiani seguono degli uomini, o meglio, sono attratti da esseri con personalità forti, che hanno dei doni eclatanti come quello della predicazione o dei miracoli. Ma, come disse Spurgeon, noi ammiriamo la fede di certi uomini che è stata ferma e solida. Ma la fede di tali uomini può essere dannosa e nociva se noi ci riposiamo su di essa. Non dobbiamo dimenticare che confidare nell'uomo sarà il peccato per eccellenza degli ultimi tempi. L'anticristo sarà un uomo talmente carismatico che tutto il mondo l'adorerà. Nessuno può diventare un dittatore se non ha chi lo segue ciecamente. Quando gli uomini danno a un essere umano la fiducia che spetta a Dio, l'uomo si trasforma in dittatore, in un despota. Ho visto un documentario nel quale un dittatore chiedeva alla folla, che l'acclamava incessantemente: «Volete degli onori?» «No», rispose la folla. «Volete la gloria?» chiese ancora. «No», rispose la folla. «Volete il benessere?» chiese il dittatore per la terza volta. «No», rispose la folla tutta in coro. E così il popolo andò in guerra. E, forse per questo che osservo con distacco e paura certe scene evangeliche, quando vedo dei cristiani che sono acclamati e continuamente applauditi, il mio cuore trema. Non ho nulla contro questi credenti, ma un uomo di Dio lo si riconosce dallo spirito che suscita negli uomini. Quando un credente per i suoi doni o per l'opera che svolge vi attira a sé, dovete tremare, dovete alzare le antenne dell'accortezza. Un uomo di Dio è colui che suscita negli uomini il desiderio d'andare a Cristo. Colui che suscita nelle persone un santo zelo di servire Dio. I veri uomini di Dio sono solo strumenti nelle sue mani, sono canali per benedire il prossimo. Un vero uomo di Dio è schivo, come Gesù, riguardo al successo personale. Quando Pietro andò da Cornelio per portargli l'Evangelo, Cornelio si inginocchiò ai suoi piedi, ma Pietro gli disse: «Alzati, anch'io sono un uomo». Quando vi sentite attratti da un uomo, tremate. Quando vi sentite attratti da Dio, correte. Nel suo libro L'uomo spirituale, Watchman Nee mette in guardia i credenti dal lasciarsi sedurre dagli uomini con queste parole: «Non dobbiamo vivere seguendo le parole di un uomo solo perché abbiamo rispetto e ammirazione per lui. I suoi discorsi e il suo comportamento possono essere molto santi, ma i suoi pensieri possono non essere spirituali. Non lasciamoci quindi condizionare dal cammino di chi predica, ma ascoltiamo il messaggio, se viene da Dio, e poi preoccupiamoci di viverlo. Se dovessimo credere che ciò che dice è la verità di Dio a motivo della sua condotta, faremmo allora delle parole e del comportamento dell'uomo il nostro modello di verità, anziché riferirci alla Bibbia. La storia è piena di innumerevoli santi che hanno propagato un'infinità di eresie. Come scrisse Paul Tournier, nel cuore dell'uomo non ci è solo un bisogno di amare, ma anche un bisogno di odiare, di uccidere e di comandare. Non si potrebbero manipolare gli esseri umani se già non vi fossero nel loro intimo i sentimenti che vengono risvegliati. Violence et puissance. Proprio per questo, i cristiani danno una connotazione divina ai loro sentimenti positivi. E, cristianizzandoli, si sono gettati in battaglie di fede, pronti a sacrificarvi la vita, non solo ritenendo ciò lecito, ma anche un dovere sacro. Il pericolo della potenza spirituale è sempre presente, anche nel cuore del più santo dei figli di Dio. Il successo pubblico, essere presi per maestro, interpretare la volontà di Dio, sono doni che possono rivolgersi contro il cristiano, così che, senza rendersene conto, penserà che chi segue i suoi consigli obbedisce a Dio, chi gli resiste è a Dio che disubbidisce. E dunque molto pericoloso essere potenti, essere dotati di fascino, essere rivestiti di autorità spirituale. L'abuso di potere è quasi sempre inconscio. Mentre i deboli sono coscienti della loro debolezza, i forti non lo sono della loro forza, della pressione che esercitano su coloro che dipendono da loro. Dobbiamo dunque diffidare della nostra reazione di dispetto quando gli uomini si sottraggono alla nostra influenza. Poiché il tema è di massima importanza, ritengo utile inserire uno stralcio di uno scritto di Primo Levi testimone e sopravvissuto al lager di Auschwitz che troviamo nel suo libro Se questo è un uomo. Occorre dunque essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione. Ossia con i capi carismatici. Dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà. Poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti. È meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore. Anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis. È meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate. E ancora, i mostri esistono ma sono troppo pochi per essere veramente pericolosi. Sono più pericolosi gli uomini comuni, i funzionari pronti a credere e a obbedire senza discutere. Soltanto Dio può soddisfare il cuore del credente, perciò la creatura umana non è in grado di farlo. L'errore di molti cristiani è di cercare nell'uomo ciò che può essere trovato solo in Dio. Cosa cerchiamo quando ci riuniamo? Chi cerchiamo quando siamo in difficoltà, quando svolgiamo un'opera? Per chi lavoriamo? Se noi cerchiamo Dio e serviamo Lui, allora il nostro piede non vacillerà. Forse è questo il motivo per cui tanti cristiani vacillano nella loro vita. La loro fiducia è posta negli uomini. lavorano per avere l'approvazione da loro e una volta che questi li hanno delusi, vacillano nella loro fede. Anche l'Apostolo Paolo, prima di conoscere Gesù come il suo Salvatore e Signore, ha cercato di piacere gli uomini, Galati 1:10, e per questo quante volte ha dovuto avvertire i credenti di non cadere in questo errore. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore, e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Efesini 6:5-8. Ecco allora l'uomo che non vacilla, colui che confida in Dio in ogni occasione. Egli riconoscerà negli altri i doni spirituali. Vedrà i cristiani come strumenti nelle mani di Dio per parlare a Lui e per fortificarlo, mentre il suo cuore non confiderà negli uomini ma in Dio. Un uomo che ama Dio sopra a ogni cosa non si attaccherà ai suoi doni, ma al donatore. E di un tale uomo che Dio non permetterà che il piede vacilli. Colui che confida in Dio vedrà il bene e il male provenire da Dio. Da Dio dipendono chi erra e chi fa errare. Giobbe 12:16. Quando Giuseppe, il figlio di Giacobbe, fu venduto dai fratelli, non serbò rancori o amarezze nei loro confronti, ma in seguito li consolò con queste parole: «Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese, e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra, e per salvare la vita a molti scampati». Genesi 45:5-8. Per fede, Giuseppe era andato oltre all'apparenza, vedendo la mano di Dio anche nel male. Se i cristiani sapessero confidare in Dio in ogni frangente, non avrebbero nemici, non farebbero vendette, non avrebbero rancori o conti in sospeso. Il libro dell'Ecclesiaste ci invita a considerare quello che Dio permette nella nostra vita. Considera l'opera di Dio, chi potrà raddrizzare ciò che Egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ecclesiaste 7:13-14. Ecco dunque cosa devo fare quando mi trovo nelle avversità. 1. Il primo pensiero non deve essere che cosa devo fare io per raddrizzarle, ma che cosa si propone di fare Dio attraverso quello che mi accade. 2. Se, nel suo piano di grazia e di misericordia, Dio ha deciso di rendere curve certe cose che a me piacerebbero tanto fossero diritte, sarebbe da stolti insistere nel tentativo di raddrizzarle. 3. Quando tutto fila liscio e le cose vanno bene, mi devo ricordare che tutto questo è un dono di Dio. Lo devo ringraziare senza morbosi complessi di colpa, perché Dio ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. 1 Timoteo 6:17. 4. Quando tutto gira storto e le cose vanno male, devo riflettere. Mi devo ricordare che, se nel giorno della prosperità la bontà di Dio è manifesta, nel giorno dell'avversità la bontà di Dio è nascosta. Devo riflettere e non dire che il giorno della prosperità l'ha voluto Dio e il giorno dell'avversità l'ha voluto il diavolo, perché Dio ha fatto l'uno come l'altro. Esodo 4:11. Lamentazioni 3:34-39. Isaia 42:24. Amos 3:6. 5. Se oggi mi viene tolto un bene che possiedo e che conosco, certamente Dio me ne vuol dare un altro maggiore che ancora non possiedo e non conosco. Infine mi devo ricordare che Dio ha fatto il giorno della prosperità e il giorno dell'avversità, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. 6. Questo significa che devo smettere di voler uscire dai guai, cercando affannosamente di prevedere, programmare e assicurare il mio futuro. La mia preoccupazione deve essere l'ubbidienza a Dio oggi. Il domani è un problema suo. Gesù ha ordinato: Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e questo si può fare ogni giorno, sia esso bello o brutto ai nostri occhi. Confidare in Dio rimane quindi per l'uomo la più grande sfida della sua vita. Questo risulta evidente anche dai numerosi inviti e dagli avvertimenti di Dio. Tramite il profeta Geremia Dio afferma: «Così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto, quando giunge il bene, egli non lo vede, abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, per cui il Signore è la sua fiducia. Egli è come un albero, piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno, e non cessa di portar frutto». Geremia 17, 5 a 7. L'uomo maledetto è colui che confida negli uomini, e alla fine non vede nessun bene da parte di Dio. Quante persone si lamentano e hanno grandi benedizioni? Per chi confida negli uomini tutto è arido, è terra salata, e per quanto Dio lo benedica, vi è una continua ingratitudine nel suo cuore. Ma chi confida in Dio è come un albero rigoglioso, anche se attorno a lui vi è la siccità. Egli, con le radici della preghiera e della lettura della parola di Dio, saprà attingere in ogni momento l'energia necessaria per portare frutto. Nel suo libro Vorremmo vedere Gesù, Proiezioni invita i cristiani a fare di Cristo lo scopo, il traguardo della propria vita. Con saggezza osserva, Gesù permette che siamo frustrati e delusi nei nostri sforzi tesi a raggiungere questa o quella meta, affinché egli possa venirci finalmente incontro e sussurrarci: «Figlio mio, io non ti ho promesso che se ti fossi arreso, pentito e messo a posto con me, avresti ottenuto, oltre il risveglio, una situazione più tranquilla, più successo e dinamismo nel tuo servizio. Quello che ti prometto è che, se camminerai con me, concedendomi di mostrarti il peccato non appena si presenta e di purificarti da esso, tu avrai non queste cose, ma me. Fa di me il tuo traguardo, ed esso non ti sfuggirà, e sarai soddisfatto perché avrai tutto ciò che Dio vuole darti». Virgolette punto. Poi continua col dire: «La cosa biasimevole è questa. Quando arriviamo a capire tutto ciò, ne rimaniamo un poco delusi, dovendo ammettere che in realtà non era tanto lui che cercavamo, quanto piuttosto i suoi doni per delle ragioni egoistiche e ambigue. Ecco perché egli non ce li ha concessi. Ogni volta che sperimentiamo delle sconfitte scopriamo che il nostro traguardo non era Dio, perché la nostra fiducia non era posta totalmente in Lui. Chi confida nel suo Salvatore e Signore è benedetto, perché Dio sarà la sua fiducia, la sua forza, la sua salvezza, la sua sapienza, la sua salute fisica e spirituale, perché vedrà il bene e porterà frutto. Questa è la vita normale di chi non ha il piede che vacilla. A noi la scelta». Una curiosità. Abbiamo considerato che avere fede in Dio è l'esortazione centrale della Scrittura, ma ciò, secondo alcuni studiosi, è vero non solo in senso simbolico, ma anche reale. Infatti sarebbe il versetto centrale della Bibbia. Sapete qual è il versetto centrale della Bibbia? È facile ricordarlo. Sapete qual è il capitolo più lungo della Bibbia? Il Salmo 119. Sapete qual è il capitolo più breve della Bibbia? Il Salmo 117. In mezzo a questi due salmi ci è il versetto centrale della Bibbia, esattamente 118, 8. «Nella mia angoscia invocai il Signore. Il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me. Io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me, fra i miei soccorritori, e io vedrò quanto desidero sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo? È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi?» Salmo 118, 5 a 9. Che possa essere questo il nostro atteggiamento di ogni giorno. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono.